Buongiorno, sono Luca. Oggi è il 10 agosto 2020. In merito al commento fatto dal prefetto sulla sentenza del giudice di pace di Frosinone, commento a mia volta le esternazioni che sono state fatte. I padri costituenti e le madri costituenti sapevano benissimo, durante il periodo lungo nel quale è stata partorita la Costituzione della Repubblica Italiana, che c'era e c'è il pericolo nelle società e negli stati democratici dell'abuso di potere. Quindi apposta non è stato inserito la problematica dello stato d'eccezione e della crisi emergenziale. E quindi è stata lasciata solo la possibilità di conferire determinati poteri in stato di guerra, proprio per evitare l'abuso da parte del potere amministrativo dello Stato, quindi l'abuso potenziale da parte dell'esecutivo, perché la storia ha insegnato che quando una Costituzione di una Repubblica, che è la legge fondamentale dello Stato, lascia una falla strutturale all'interno dell'architettura della Carta Costituzionale, è possibile che in maniera legale e legittima, un potere abusante, un potere che abusa, si strutturi e spodesti l'ordinamento democratico e vada a conculcare i diritti fondamentali del cittadino. Questa cosa è accaduta con i fatti storici della Repubblica di Weimar e la presenza del famigerato articolo 48 che ha consentito la sospensione totale o parziale di 7 diritti fondamentali del cittadino in Germania ai tempi dell'ascesa del Partito Nazionalsocialista, cioè in maniera legittima, legale, a causa della struttura stessa, quindi di alcune falle strutturali all'interno della Carta Costituzionale tedesca. Il caporale tedesco Adolf Hitler divenne cancelliere del Reich e ci fu la sospensione dei diritti fondamentali. E l'articolo 48 della Costituzione di Weimar prevedeva la sospensione di 7 diritti fondamentali e quindi lo strutturarsi di uno stato d'eccezione. Quindi apposta i padri costituenti e le madri costituenti italiane non hanno inserito la possibilità della sospensione dei diritti fondamentali del cittadino, cosa ribadita dalla stessa Presidente della Corte Costituzionale Cartabia, che ha ricordato nella sua relazione sulle attività del Palazzo della Consulta nel corso dell'anno 2019, che non esiste una sospensione dei diritti fondamentali, neppure durante le crisi emergenziali. Per quanto riguarda la sentenza del giudice di pace, è legittima l'impugnazione della sentenza e bisogna vedere se è ammissibile e si pronuncerà in secondo grado se la sentenza è ammissibile nella sua impugnazione e tribunale monocratico d'appello. Ma il giudice di pace di Frosinone non ha fatto altro che applicare la discrezionalità nell'agire nel suo potere di giudice. Negli ordinamenti democratici esiste una separazione dei poteri: potere giudiziario, potere esecutivo e potere legislativo. Nasce la separazione dei poteri a livello di dottrina politica, di ordinamento giuridico, nasce con il celeberrimo Montesquieu. Ricordate Montesquieu, ricordate la Rivoluzione francese, ricordate che perché una società democratica repubblicana sia sana è necessario che ci sia la separazione dei poteri: potere giudiziario, potere esecutivo e potere legislativo. La Costituzione della Repubblica prevede che ci possano essere errori di valutazione e prevede che il cittadino possa difendersi contro degli errori, di valutazione o contro proprio un potere abusante. Quindi il cittadino può difendere i propri interessi legittimi e diritti soggettivi. Questo è previsto dalla Carta Costituzionale. C'è una lettera firmata da 20 magistrati italiani che mesi fa ha messo per iscritto che c'è stata la violazione della riserva di legge. Da parte di chi? Da parte delle autorità. Quindi la sentenza del giudice di pace di Frosinone non fa altro che aggiungersi idealmente, all'opinione di quei 20 magistrati, per cui adesso sono 21 e sono sicuro che ce ne sono centinaia di magistrati italiani, giudici o non giudici, magari appartenenti ad altri settori dell'autorità giudiziaria, che la pensano come il dottor Manganiello, giudice di pace di Frosinone, ma per opportunità, per quieto vivere, non si esprimono pubblicamente. Io sono dell'idea che il giudice di pace Frosinone avrebbe dovuto e avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale, perché sarebbe importante che la Corte Costituzionale intervenga. Il sollevamento della questione di legittimità costituzionale può essere fatta da parte del giudice d'ufficio oppure da parte del ricorrente. Quindi, considerato che i padri costituenti e le madri costituenti conoscevano benissimo il rischio che in una carta costituzionale ci sia un articolo o comunque un pretesto, no, perché uno stato emergenziale d'eccezione si strutturi, apposta non l'hanno inserito. E quindi c'è solo il riferimento a problematiche di igiene, salute e sicurezza all'articolo 16, sulla limitazione della libertà di circolazione. In ogni caso c'è la riserva di legge. In ogni caso, cosa più importante, nel 1957 e nel 1968 ci furono due epidemie a livello di pandemia, quindi ci furono due eventi pandemici che provocarono alcune migliaia di morti, questo secondo gli archivi storici delle autorità sanitarie, e non ci fu nessun lockdown, non ci fu nessun confinamento dei cittadini. E questo avvenne dopo che fu promulgata ed entrò in vigore la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana il 1 gennaio del 1948. Quindi dal 1948 ad oggi stiamo assistendo a un evento, tra virgolette, pandemico, anche se non c'è alcun documento firmato con i criteri rispettati secondo il quale saremo di fronte a una pandemia, c'è solo una dichiarazione da parte delle autorità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma non è spiegato quali sarebbero i criteri che fanno sì che questa epidemia di virus SARS-CoV-2 si possa ascrivere all'evento pandemico. Comunque, storicamente, ci sono state due pandemie alla fine degli anni 50, alla fine degli anni 60, e in entrambi i casi non sono stati compressi e limitati i diritti fondamentali del cittadino, se non altro qua in Italia. Quindi la scusa o comunque il fatto che la Carta Costituzionale non sarebbe adeguata ai tempi è una scusa ridicola che va a cozzare contro la logica degli eventi storici, perché ci sono stati due grandi precedenti negli anni 50 e negli anni 60 di fronte ai quali le autorità italiane e non solo italiane non hanno limitato e compresso i diritti fondamentali della persona. Questa è storia. Questa è storia, sono fatti storici. Sono agli atti, ci sono gli archivi, ci sono le cronache dei giornali, le cronache dei telegiornali. Quindi stiamo assistendo a una narrazione mistificante da parte delle autorità, soprattutto quando si ostinano a non riconoscere la violazione della riserva di legge che c'è stata per firma riconoscimento in lettere appello da parte di magistrati italiani e da parte di decine e decine di avvocati italiani che hanno scritto, sottoscritto lettere appello alle autorità, dove evidenziano la palese violazione della riserva di legge che c'è stata da parte delle autorità stesse. Non ci sono altri discorsi da fare. Poi vedremo in secondo grado se l'impugnazione della sentenza di pace, della sentenza del giudice di pace, verrà ribaltata, verrà confermata, sarà definitiva o non definitiva. Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Ma il giudice di pace di Frosinone ha legittimamente interpretato il proprio ruolo. Avrebbe potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale. Ha ritenuto che gli elementi in suo possesso, nel merito, fossero sufficienti ad annullare la sanzione. Ha espresso il suo ruolo legittimo, di giudice, e in una repubblica, in un ordinamento giuridico liberale, democratico, ci deve essere e deve essere rispettata la separazione dei poteri, potere esecutivo, potere giudiziario e potere legislativo. Se non sono separati questi poteri, c'è il rischio dell'abuso. Per questo i padri e le madri costituenti apposta non hanno inserito articoli o appigli nella Carta Costituzionale italiana che potessero configurare uno stato d'eccezione in una crisi emergenziale, ad esempio sanitaria. Apposta lo hanno fatto per evitare quello che accadde con la Repubblica di Weimar e il famigerato articolo 48, falla strutturale che consentì l'ascesa di Adolf Hitler e il nazionalsocialismo con milioni e milioni di morti, orfani, vedove e sofferenze inenarrabili. Ciao a tutti da Luca.